Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'economia spiegata non attraverso i manuali, ma attraverso le citazioni di filosofi, economisti, storici, ma anche attraverso brani tratti dall'esortazione apostolica evangelica Gaudium di Papa Francesco. È quel che si propone l'agile volume L'economia in tasca, 100 citazioni imperdibili, a cura di Andrea Boitani, appena pubblicato dalla Terza. Per parlarne questa sera è con noi Giuseppe La Terza, che guida l'omonima casa editrice. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Intanto, prima di ascoltare alcune delle citazioni riportate nel libro, vorrei che ci spiegasse com'è nata l'idea di affidare alle citazioni il compito di aiutarci a capire l'economia. Ma l'idea è nata perché nel corso degli anni, ogni volta che mi capitava di leggere una frase non solo di un economista, ma anche l'ho scritta in un mio libricino, e mi è capitato qualche tempo fa con il mio amico Andrea Boitani, con cui siamo tutti e due laureati con Federico Caffè all'università qui a Roma, sì, che anche lui facesse la stessa cosa. E allora mi è venuto spontaneo di dirgli: ma perché non le raccogliamo? Perché non andiamo a cercare dei grandi economisti, ma anche non le frasi che ci hanno colpito di più e che raccontano economia a 360 gradi? E così è nata l'idea di fare questo piccolo libro. E allora cominciamo con questa citazione sul tema dello sviluppo di Amartya Sen del 1999, perché non c'è crescita senza democrazia. Lo sviluppo richiede che siano eliminate le principali fonti di illibertà: la miseria come la tirannia, l'angustia delle prospettive economiche come la deprivazione sociale sistematica, la disattenzione verso i servizi pubblici come l'intolleranza o l'autoritarismo di uno Stato repressivo. Nonostante un aumento senza precedenti dell'opulenza globale, il mondo contemporaneo nega libertà elementari a un numero immenso di esseri umani e forse addirittura la maggioranza. E allora, dottor La Terza, sostanzialmente Amartya Sen ci dice che lo sviluppo non porta assolutamente eguaglianza. No, è l'esperienza che abbiamo fatto anche negli ultimi 30 anni. I grandi economisti ci dicono che ci può essere crescita con maggiori diseguaglianze, addirittura con fenomeni di impoverimento assoluto, se per esempio con la tecnologia si espelle lavoro senza crearne di nuovo. E quindi questo è una, come dire, anche un atto di umiltà degli economisti, che capiscono che l'economia ha bisogno di politica, ha bisogno di società e ha bisogno moltissimo di cultura e di etica. Che tra l'altro, lo ricordo, sono temi che sono stati affrontati anche al Festival di Economia di Trento, di cui lei è uno dei grandi animatori fin dall'inizio. E ora passiamo a una citazione del premio Nobel per l'economia nel 2001, Joseph Stiglitz, che confuta la tesi del fondatore della moderna economia Adam Smith, secondo cui è il libero mercato il motore dello sviluppo. L'argomento di Adam Smith che il libero mercato porta a risultati efficienti come se fosse guidato da una mano invisibile ha giocato un ruolo centrale. Suggeriva che potevamo in gran parte far conto sui mercati senza intervento pubblico. Tutt'al più c'era spazio limitato per lo Stato. L'insieme delle idee che presento qui di seguito ha nominato la teoria di Adam Smith e la visione dello Stato che essa sorreggeva. Tali idee hanno suggerito che la ragione per cui la mano può essere invisibile è che semplicemente non esiste, o almeno, se esiste, è artritica. È molto interessante questa affermazione, e che poi pone in luce il cronico e famoso e storico dissenso, o comunque il dibattito che si pone tra Stato e mercato nell'economia. Sì, c'è un filone di economisti che, come Stiglitz, pensa che sia fondamentale avere un forte ruolo dello Stato anche per esempio, come si è detto prima, ridurre le diseguaglianze. Un altro che invece pensa che questo sia molto rischioso, perché lo Stato è un intervento arbitrario, soggettivo, che può distorcere lo sviluppo e la creazione di ricchezza. Molti economisti, devo dire, pensano che le due cose non si escludono. Anzi, per certi versi, si può avere un mercato forte e competitivo solo se c'è anche un arbitro, come l'arbitro di una partita di tennis, delle, certo, Champions League, che fa rispettare le regole. Il tema dell'iniquità, di cui abbiamo parlato poc'anzi, è al centro di quest'altra citazione, che questa volta riguarda appunto non un economista, non un filosofo, ma Papa Francesco. ed è tratta dall'esortazione apostolica evangelica Gaudium del 2013. Così come il comandamento «non uccidere» pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire «no» a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti di borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è iniquità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. La conseguenza è che grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate. Considerazioni, dottor Laterza, queste di Papa Francesco, semplici ma rivoluzionarie, direi. Assolutamente, per quello che è il nostro, come dire, modo di pensare nelle società occidentali, direi sono rivoluzionarie. Lo sarebbero state meno forse un secolo fa, quando queste stesse idee trovavano ospitalità, diciamo, nei partiti che si muovevano soprattutto nella sinistra. Credo che quello che comunque ci suggeriscono queste parole di Papa Francesco è che non può che esserci una priorità al sistema dei principi rispetto al sistema della convenienza. Certo, infatti non a caso parla di economia dell'esclusione. Bene, adesso vorrei concludere questa carrellata di citazioni che abbiamo scelto, perché ce ne sono molte altre interessanti nel volume, sul tema del valore condiviso, quale emerge dalla citazione dell'economista Michael Porter e dall'imprenditore Mark Cramer, che tratta dal famoso testo Creating Shared Value, How to Reinvent Capitalism del 2011, apparso in Harvard Business Review. Il sistema capitalistico è sotto assedio. In anni recenti l'impresa è stata vista come la fonte di problemi sociali, ambientali ed economici. Anche peggio, più le imprese hanno cominciato ad adottare la corporate responsibility, più sono state incolpate dei fallimenti della società. Gran parte del problema sta nelle imprese stesse, che sono incastrate nel vecchio approccio basato sulla creazione di valore emerso nei decenni precedenti. La soluzione sta nel principio del valore condiviso, che implica cercare valore economico in modo che crei valore anche per la società, affrontando i suoi bisogni e le sue sfide. Dunque, questo del valore condiviso, della responsabilità sociale delle imprese, è un tema fondamentale, se ne discute da anni e credo che sia anche giusto e opportuno che voi l'abbiate inserito in questo testo di citazioni importanti e imperdibili. Ma sì, in un certo senso quello che dice Porter in questo piccolo brano fulminante è che si cresce insieme, non si può crescere individualmente contro gli altri. E se io vivo in una città in cui a pochi passi da casa mia c'è un quartiere, uno slum, fatto da gente che vive nei baraccati, in mezzo alla sporcizia, che non ha i servizi essenziali, sono io stesso, diciamo, degradato nella mia esistenza di uomo. Ecco, questo detto dentro la rivista più prestigiosa, diciamo, di business di Harvard, come se parlasse Papa Francesco, ci è sembrato molto interessante. Nell'introduzione, appunto, il professor Boitani dice che, raccontando appunto la genesi del volume, dice che gli economisti, diversamente dai filosofi, raramente si esprimono per aforismi illuminanti e spiazzanti. Per dire cose significative hanno bisogno in genere di parecchie righe, quando non di grafici e formule matematiche più o meno complesse. Ecco, con questo libro, in qualche modo, come dire, si apre un nuovo orizzonte per aiutarci appunto a comprendere l'economia, cioè quella di brevi citazioni ma molto significative. Sì, quello che io spero è che queste siano, come si dice, una bella espressione inglese, thought provoking, cioè provochino, diciamo, suscitino curiosità, pensiero e voglia magari di comprarsi i libri di cui quelle citazioni sono parte. E sì, poi ce ne sono tante altre, le cito soltanto per memoria per chi, e spero, abbia desiderio poi di leggere questo volume dopo aver ascoltato la trasmissione. Ce n'è una, ad esempio, del grande storico dell'economia Carlo Maria Cipolla, che Il cambiamento è ciò che lo frena, che è un testo del 1970, in cui si dice: il cambiamento richiede sforzo di fantasia, il cambiamento dà fastidio agli interessi costituiti. E anche questo non è banale, dottor Laterza. No, tutto tutti i cambiamenti trovano resistenza, perché noi siamo affezionati alle nostre abitudini, no? E poi non necessariamente i cambiamenti sono un bene, va detto, ci sono alcuni cambiamenti catastrofici. Però quello che credo voglia dire Cipolla è che, diciamo, anche le persone migliori e anche quelle migliori intenzionate alla lunga, soprattutto con l'età, diventano conservatori. L'economia ci insegna che l'atteggiamento più, diciamo, ragionevole in quel caso è riuscire a contenere insieme, diciamo, elementi della tradizione ma anche un forte impulso all'innovazione. L'innovazione può far male, ma è un elemento che dà spazio alle forze migliori della società. Questa parte del mondo, la nostra, è cresciuta nei secoli, è diventata una delle più ricche nel mondo, oggi il reddito pro capite nei non paesi europei è tra i più alti nel mondo, perché ha saputo dare spazio proprio all'innovazione. Bene, molto bene, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi a raccontarci di questo libro, vi ripeto, molto interessante, L'economia in tasca, 100 citazioni imperdibili a cura di Andrea Boitani. Buonasera dottor Laterza e grazie ancora. Buonasera e grazie a voi.